Radio 24 Reportage. Dopo un faticoso avvio, le lancette di Expo girano con decisione. Mancano 475 giorni all'alba del 1 maggio 2015, giorno fatidico dell'apertura. Dal 1 maggio fino al 31 ottobre, 6 mesi dunque, con un cartello di adesioni da far impallidire l'esposizione precedente di Shanghai di 5 anni fa. La volata comincia adesso, in gennaio. 4.000 operai sono pronti per costruire i 60 padiglioni, compreso quello italiano, che ospiteranno i 141 paesi aderenti. Poi gli operai passeranno ai 9 cluster tematici per le nazioni più povere che producono alimenti più o meno simili, dal caffè al riso al grano. Un menù che richiamerà 20 milioni di visitatori, per ora solo annunciati, ma sempre un bel numero. Perfino Enrico Letta, di solito prudente, si cimenta in un paragone azzardato ma molto evocativo. Milano Expo 2015 avrà lo stesso impatto che nella storia italiana hanno avuto le Olimpiadi di Roma del 1960. Quell'avvenimento, le Olimpiadi di Roma del 1960, hanno mostrato al mondo che cosa era stato il miracolo economico italiano. Il miracolo economico, già, e chi se lo ricorda più? Eppure in questi 40.000 metri quadrati, periferia ovest tra il comune di Rho e Milano, con molti collegamenti ancora da completare, soffia un vento di speranza. Sentiamo il presidente della Commissione europea, José Barroso. Expo Milano contribuirà anche a prepararci meglio per far fronte insieme alle pesanti sfide che ci aspettano in materia di sviluppo sostenibile e di alimentazione a livello planetario. Nutrire il pianeta, energia per la vita, sulla carta sembra una sfida che vola troppo in alto. Carlo Petrini, papà dello Slow Food, tornato di recente al capezzale di Expo, la pensa diversamente. E non c'è ombra di dubbio che il più grande campo da arare per l'aumento demografico e per risolvere il problema della fame, il più grande campo da lavorare è quello dello spreco. Quello è il campo su cui bisogna concentrarsi. Noi produciamo in questo momento cibo per 12 miliardi di viventi, siamo 7 miliardi, 1 miliardo soffre di malnutrizione e di fame, quindi siamo attorno al 40-45% di spreco. Prima di implementare la produzione bisogna ridurre lo spreco. In questo discorso l'Italia si posiziona in prima fila per riuscire a incrementare la quota di export delle nostre grandi filiere alimentari. Il padiglione Italia, alla fine dei 6 mesi, verrà trasformato in un museo stabile dedicato al nostro cibo e alle nostre eccellenze, come spiega Diana Bracco, commissario del padiglione Italia. Abbiamo questo anno e un po' di mesi per, da un lato, far crescere l'edificio, installare il cardo, perché l'edificio è destinato a rimanere, quindi ha tutta una sua dignità architettonica importante. Il cardo è una parte che sarà allestita e poi disinstallata. I nostri sponsor tecnici stanno già lavorando alla ricopertura, quella famosa seconda pelle che deve rappresentare una foresta urbana e che sarà realizzata in un cemento biodinamico particolare che Italcimenti ha studiato insieme con gli architetti di padiglione. Parallelamente stiamo costruendo i contenuti, perché vogliamo avere una storia italiana che conduca il visitatore attraverso il cardo e nel palazzo. A questa stiamo lavorando, pensiamo che per fine gennaio potremo presentare come noi vediamo la storia dell'Italia e come la vogliamo presentare al mondo. Un tema importante è l'adesione degli altri paesi, finora 141, che in un mondo globalizzato è il vero segnale di salute di una esposizione. Cifre imponenti rinforzate dall'adesione di ONU, CERN di Ginevra e dell'Unione Europea. Sentiamo ancora Barroso. Questo evento sarà anche l'occasione per l'Unione Europea, che parteciperà con il motto «Coltiviamo insieme il futuro dell'Europa per un mondo migliore», per sviluppare un dialogo con i cittadini sull'Europa, le sue politiche, il suo avvenire. poi tanta Africa e tanta Asia, più ancora che a Shanghai. I paesi del Golfo e gli Emirati Arabi non baderanno a spese. La Svizzera, prima a dire sì, mette sul piatto 20 milioni di investimenti e un padiglione all'insegna della sostenibilità, con 5 torri riempite di prodotti alimentari che scendono man mano che vengono consumati dal pubblico. Un modo plastico per dire che le risorse di questo mondo non sono infinite. Tanti annunci, tante attese, ma poi, finita la festa, cosa resterà? Risponde il ministro Lupi. 11 miliardi e mezzo di opere infrastrutturali che saranno realizzate saranno il vero lascito che Expo darà a tutto il sistema infrastrutturale italiano e alla regione Lombardia. La cosa più commovente è anche andare finalmente sul sito del quartiere espositivo e vedere i primi paesi che iniziano a prendere possesso dell'area per costruire i loro padiglioni. 141 paesi che esporranno ci daranno la possibilità al sistema Italia di ripresentarsi al mondo, ma credo a tutti noi di ragionare su che cosa sarà la crescita, la nuova crescita per il nuovo mondo. E ora il commissario Giuseppe Sala, che fa il punto dei problemi ancora aperti. Abbiamo un lavoro aperto sul tema delle vie d'acqua, che vuol dire portare l'acqua al sito, poi rilasciarla e portarla alla darsena. Sul tratto sud stiamo discutendo con i comitati dei quartieri interessati e che sono attenti al parco, delle regioni ce le hanno, su altre questioni siamo convinti di essere noi nel giusto. Il punto vero è che l'acqua va portata alla darsena, se no Milano perde l'opportunità di avere una darsena nuova e rivista. La seconda grande criticità è la cosiddetta Romonza, che è una strada che ha lo scopo di portare il flusso veicolistico da Venezia al sito. Di nuovo, la soluzione proposta è una soluzione che trova ostilità per una serie di ragioni anche comprensibili, ma di nuovo dobbiamo velocizzare un po' le operazioni perché poi i tempi stringono. Infine c'è una terza piccola criticità sull'aggiudicazione di una gara relativa alla mobilità di cosiddetta cascina merlata, e quindi il flusso che arriva invece al nostro parcheggio. C'è stato un ricorso al TAR, il TAR ha dato una sospensiva, il Consiglio di Stato si esprimerà entro gennaio, vedremo cosa dirà e se no troveremo altre soluzioni, perché di nuovo è fondamentale quella. Altro tema caldo è quello del lavoro. Quanto ne offre l'Expo? Finora sono arrivate 100.000 domande, un numero enorme, perché a parte i volontari circa 36.000, i lavoratori impegnati saranno circa 800 con contratti che vanno dall'apprendistato allo stage. 300 i rapporti a tempo determinato. Poi si vedrà, dice Piero Fassino, sindaco di una città, Torino, molto vicina anche turisticamente alle ricadute dell'Expo. Sarà una grande vetrina, come sono tutti i grandi eventi, l'Expo, le Olimpiadi, le esposizioni internazionali. E ovviamente ciascuno di questi eventi, oltre che una vetrina, è anche l'occasione per mobilitare capitali, applicare tecnologie, creare lavoro, promuovere flussi turistici. Quindi è una grande occasione per l'Italia e promuovere attività che consentano di concorrere al rilancio della crescita del paese. Ma lo scetticismo resta. Antonio Lareno, responsabile della CGIL. Stime sono assai più prudenti. Quello che possiamo affermare è quanto abbiamo convenuto con la società Expo SPA, ovvero che venga un visitatore, che ne venga 20 milioni, insomma il sito deve funzionare almeno al minimo, che sono 640 assunti, circa 195 per esattezza, stage in posizioni professionali per utilizzare l'evento, per lasciare un lascito professionale di un certo livello sul mercato del lavoro territoriale. A questi si aggiungono circa 4.000 persone che edificheranno il sito, prevedibilmente un altro decina di migliaia di persone che ruoteranno intorno al sito con una pluralità di servizi. Chiudiamo con Giuseppe Sala, Deux Ex Machina di Expo. Sala, cosa dice a quegli italiani che ancora non ci credono? Ma credeteci, perché ci hanno creduto prima gli altri paesi, se mi consentite una battuta, nel senso che obiettivamente i 141 paesi che hanno dato la loro adesione vuol dire che credono nella nostra operazione, e quindi l'idea di fare una cosa bella, molto italiana, in un periodo storico difficile, ma al contempo in cui si vuole proiettarsi al futuro, e su un tema come l'alimentazione, ecco, il nostro progetto ha avuto un enorme successo ad oggi all'Expo, quindi credo che gli italiani siano titolati a questo punto per crederci anche loro. Ed è tutto per questo reportage, ancora un saluto da Dario Ceccarelli. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.